Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Destini incrociati oggi vi parla di uomini che hanno dedicato la propria vita all'effimero, a ciò che esiste nell'attimo in cui si manifesta e che poi cade nel nulla. L'effimero non va inteso solamente in senso negativo, cioè legato alla vanità, al superfluo. Il nostro effimero è strettamente legato alla natura umana, all'essere semplicemente di passaggio. È l'essenza del teatrante e del teatro. Un luogo magico, che può essere tutto, ma solo nel momento in cui va in scena, per poi perdersi nel nulla e lasciare posto solo ai ricordi. Siamo a Parigi, è il 1983. Il presidente della Repubblica entra in uno dei saloni dell'Eliseo, il palazzo presidenziale. Il suo responsabile della cultura lo sta aspettando per discutere del progetto di un teatro europeo. L'Europa è ancora lontana dall'essere un'unica realtà e le aspettative sono esaltanti. Il ministro è teso, per quanto ambizioso, sente la solennità di quel momento. È la prima volta nella storia del teatro che l'idea stessa di fondare un'istituzione stabile, rivolta alla cultura di un intero continente, si fa strada. Quel premier e il suo ministro della cultura sono François Mitterrand e Jack Lang. Forse ricorderete la chioma nera riccioluta un po' ribelle di Jack Lang, un nome a metà tra la rock star e il divo del cinema. Un bel contrasto con il piglio energico, risoluto, autorevole del suo presidente. Una coppia, quella francese, che passerà alla storia per avere innovato nell'architettura, nella cultura, cambiando completamente il volto alla Francia. La Francia degli anni Ottanta è in pieno fermento e la sua capitale, Parigi, ne è cuore pulsante. La festa della musica, l'opéra, le Grandes Arches, la piramide del Louvre sono solo alcuni dei maestosi progetti che il ministro Lang propone e realizza. La necessità che le grandi opere siano affiancate a una viva realtà culturale è condivisa da tutti i francesi. Nei sontuosi saloni del palazzo presidenziale la discussione è accesa. Bisogna che per la sua inaugurazione la direzione del Teatro d'Europa vada al migliore talento, una personalità senza pregiudizi, pronta ad attingere al patrimonio classico e moderno, certa di interpretare la multiforme realtà del panorama artistico internazionale. Un nome circola più insistentemente degli altri. Si tratta di un personaggio riconosciuto, anche se discusso, autorevole, curioso verso le avanguardie, rispettoso della tradizione, ma anche un po' dispotico, lunatico, indisponibile ai compromessi. Nessuno, tuttavia, tra i politici ha dubbi. Il neo direttore sarà un italiano. Scelta curiosa, visto che il progetto è francese e si sa, tra italiani e francesi un tocco di rivalità è sempre latente. Poi, non meno importante, è la tradizione teatrale del Nord Europa, ricca di grandi drammaturghi e interpreti appartenenti alla cultura anglosassone, tedesca o la stessa francese. Per il neo direttore è un momento importantissimo, forse il più ambito riconoscimento per una carriera trascorsa da quasi 40 anni sulla ribalta del palcoscenico. Ha 62 anni, sempre vestito sobriamente di nero, con i capelli argentei difficilmente domati, leggermente riflessi d'azzurro, sempre ravviati all'indietro. Anima sensibile e piglio di un leone. Ha già in mente il primo spettacolo con il quale esordirà. È la sua Tempesta di Shakespeare. Quell'uomo, quel direttore, quel regista è Giorgio Strehler. Giorgio Strehler. La Tempesta è uno spettacolo che Strehler realizza per la prima volta nel 1978 ed è considerato un punto di arrivo della impostazione registica che per 30 anni prima di allora ha applicato nel suo lavoro. Strehler, in un certo senso, ha introdotto il concetto stesso di regia moderna nel teatro italiano. Lo conferma Franco Sangermano, attore che ha recitato in diversi spettacoli di Strehler. C'era un andare verso la regia, perché in tutto il resto del mondo occidentale la regia era già un'acquisizione pacifica, era già stata identificata come il cammino reale verso una nuova forma di spettacolarità. Giorgio Strehler muore nel 1997, ma la sua eredità è immensa, soprattutto oggi, in un momento in cui il teatro è in difficoltà, perché il teatro è necessità, bisogno per una società che cresce, non certo evasione, parentesi dal quotidiano. Il teatro è uno specchio davanti al quale il pubblico si guarda, raramente per compiacersi, più spesso per ridere di sé, quasi sempre per mostrare il lato oscuro di se stesso. Un concetto che viene espresso per la prima volta negli anni 40, quando Strehler, appena 25enne, si confida con un caro amico sul suo progetto di un teatro nuovo, basato su una forte impronta registica. È sempre San Germano a parlarcene. Si ritrovano su un progetto che nasce essenzialmente nella testa di Grassi. L'intuizione è che il teatro deve essere un servizio pubblico, né più né meno che la rete del gas, l'acqua potabile, la luce elettrica o il servizio dei tram. L'amico con il quale Strehler si confronta, discute anche animatamente, è un organizzatore, un impresario. Il loro connubio ha cambiato la storia del moderno teatro italiano. Quell'amico si chiama Paolo Grassi. Paolo Grassi. Milano, 1937. La nebbia avvolge Milano nei mesi invernali come una calda coperta, rendendo i cappotti di lana e i cappelli di feltro più accoglienti e meno ruvidi di quanto non siano in realtà. Affondarci le guance è quasi consolatorio per un giovane ragazzo che sotto il paltò ha ancora i bermuda a tre bottoni. I calzoni sono un indumento riservato ad altre generazioni. La luce del tram è ora una speranza, nel freddo che fa battere i denti, poi un barlume indeciso, infine una certezza che strappa un mezzo sorriso. I passeggeri sono marinai in attesa di una nave, ma è un miraggio amplificato dall'eco lontana dello stridere delle ruote sui binari, unito al motore elettrico che frulla portando alla vita la città, ancora apparentemente immersa nel suo torpore del mattino. La donna ardente di gioventù ci mostra tutte le sue virtù, chi poco meno, chi poco più, chi scopre tutto di su e di giù. Tramvai, nel corridoio che è stretto un metro, tramvai. Si scende avanti, si sale indietro, tramvai, quel che succede non si sa mai, ma tra la folla che viene va si può incontrare la felicità. Al profumo del pane e dei caffè si mescola l'acre odore di combustione delle poche autovetture che sferragliano lungo le comode vie della città lombarda. La campanella del tram Loreto Duomo è come una sveglia, soprattutto per i passeggeri, più che per i pedoni o i carretti che ne intralciano il passaggio. L'interno è accogliente come e più di una casa, con le sue lampadine avvitate in portalampada decorati, gli interni in legno verniciato, le scritte ordinate, tra cui la frase «Vietato parlare al manovratore», che con una manovella di ottone dosa sapientemente la corrente per accelerare o fermare la macchina. La vita è condensata in questo tram quella mattina del 1937. Alla fermata di Via Petrella, corso Buenos Aires, è facile riconoscersi, soprattutto se ci si vede tutti i giorni in un teatro. Al Lirico danno la rivista Bertoldissimo, un'operetta viennese farcita di belle ballerine. Ammaliato da queste o dalla magia del teatro, non è dato saperlo, ma un giovanissimo Paolo Grassi, non ancora diciottenne, si sta dando da fare per aiutare la produzione. È eccitato dall'atmosfera, il via vai di attori e attrici, i camerini, la macchina delle scenografie. Non vede l'ora di tornarvi ogni giorno. E anche se il tram viaggia veloce, è sempre troppo lento. Grassi, che al Lirico di Milano è l'ultima ruota del carro, ha notato alla fermata un giovanotto che incontra tutti i giorni a teatro, in uno dei posti in piedi riservati agli studenti. Un ragazzo pronto ad applaudire, che partecipa entusiasta alla ritualità del teatro. Quel ragazzo ogni mattina è alla fermata del tram con lui. Grassi sente che quel qualcosa in comune merita una presentazione. Senta, io la vedo sempre a teatro, evidentemente è una sua passione. Tanto vale che io mi presenti, che ci conosciamo e che ci frequentiamo, visto che abbiamo in comune questo amore. Io mi chiamo Paolo Grassi. E io Giorgio Strehler. Paolo Grassi dà sempre del lei alle persone appena conosciute. È convinto che il tu vada conquistato con la stima, col tempo, e che forse con il lei si mantiene più a lungo quel rispetto che è sostanziale per un giovane che vuole farsi strada nel mondo dei grandi. È lui stesso a rivelarlo. Il tu per me è un punto di arrivo, non di partenza. Per Strehler, Paolo rappresenta subito un riferimento importante. Con tutti i suoi principi e l'amore viscerale per il teatro e le sue regole, l'amicizia nasce immediata, furiosa, perentoria. Gli elementi in comune, come la frequentazione del liceo Parini o l'amore per la musica, sono importanti al pari delle diversità di carattere. Teorico e riflessivo Grassi esuberante e vivace Streller, così diversi, ma così necessari l'uno all'altro. Gli ultimi anni 30 sono soverchiati dall'organizzazione fascista della vita, che nel teatro è egemonizzata dai GUF, i gruppi universitari fascisti, che hanno competenza anche sulle arti, teatro compreso. Un teatro che è appiattito su testi spesso insulsi, certamente d'evasione, dove la creatività come tormento e innovazione è considerata al pari della sovversione. Grassi, che è il piglio dell'organizzatore dentro di sé, riesce con costanza a costruirsi la sua prima vera grande occasione. Se potessi avere 1.000 lire al mese, senza esagerare, sarei certo di trovare tutta la felicità. È il 1940. A 19 anni, a Paolo, che lavora saltuariamente per 400 lire al mese, viene proposta la prima organizzazione. Lo spettacolo si intitola La cena delle beffe, di Sam Benelli. A Grassi non interessa quel testo molle e cortese, esattamente il contrario del teatro che lui ha in mente, ma pur di rompere il ghiaccio, accetta e si butta al lavoro. In piena tournée teatrale arriva come un fulmine a ciel sereno il 10 giugno 1940. La radio è accesa. Il collegamento con Roma, Piazza Venezia. Combattenti di terra, di mare, dell'aria, camicie nere della rivoluzione e delle legioni, uomini e donne d'Italia, dell'impero e del regno d'Albania, ascoltate, un'ora segnata dal destino batte il cielo della nostra patria, l'ora delle decisioni irrevocabili. L'Italia è in guerra. Grassi è una corda di violino. Lui così misurato, ragionato, riflessivo, quel 10 giugno è teso, adrenalinico, forse a causa della produzione che sta seguendo. Non riesce a stare al suo posto come vorrebbe un minimo di saggezza. Il giovanissimo manager non sa far altro per esprimere il suo dissenso con quanto ascolta alla radio che issare una bandiera inglese sul tetto del teatro con l'appoggio dell'amico Streller. Non sarà questo episodio a segnare il loro futuro, certamente ne sarà il presagio. Il loro essere antifascisti è destinato a una dura repressione. Intanto arrivano le cartoline dell'esercito della chiamata alle armi. La prima a Streller, classe 1921. Poi a Grassi, classe 1919. La guerra rappresenta un lungo periodo di inattività teatrale e di impegno antifascista. I due amici si sono separati e mentre Streller, nelle fasi finali del conflitto, viene condannato a morte ed è costretto alla fuga in Svizzera, Grassi, abbandonati i GUF, i gruppi universitari fascisti, entra nel mirino della polizia. Il regime non sa che farsene del teatro d'avanguardia, anzi lo considera pericoloso. Alla fine della guerra, con l'arrivo degli americani, della scena teatrale italiana resteranno solo macerie. There's a gal at the local beery, she's a pretty hunk of scenery. She can make a chocolate soda go. You ought to go around and dig it. When she's working at the spigot, you can hear her calling orders like this. Give me a ham white down and a burger round. Side of slaw and a seven layer. OJ up, wreck two in a cup, and a boogie woogie blue plate. Give me a crippled beef on a load of hay. Combo rye and a bottle of ale. Coming through with a slab of moo and a boogie woogie blue plate. Draw one, draw two. Get that coffee perking. Draw three, draw four. Hold that mayo on the chopped egg working. Want a tuna wheat with a side of fries. 86 on the cherry pies. Side of greens on the franks and beans. And a boogie woogie blue plate. Dopo la liberazione c'è voglia di divertirsi, di evadere, di sperare. I teatri di tutta Italia, almeno quelli rimasti in piedi, fanno costantemente il tutto esaurito. Ma gli spettacoli che vanno in scena sono tutti residuati del vecchio repertorio e il teatro non riesce a scrollarsi di dosso opere ancora intrise di romanticismo e telefoni bianchi. Paolo Grassi e Giorgio Streller intuiscono che è arrivato il momento per dare sfogo alla propria vocazione creativa. Il cinema è l'unico linguaggio capace di fare avanguardia dall'Italia nel mondo. Rossellini sta preparando le riprese di Paisà e Germania anno zero. De Sica gira Sciuscià e Ladri di biciclette. Il cinema italiano si appresta a vivere una stagione di grande innovazione nel linguaggio, nella scelta dei soggetti. A Milano i locali scoprono il jazz, la musica americana proibita durante il regime. Il teatro, come afferma Giulia Lazzarini, attrice che ha lavorato per molti anni con Streller, ha bisogno di una scossa, di una tempesta. Ecco, venendo poi da un teatro capocomicale, hanno sovvertito veramente tutto e questo è stato importantissimo. Al Lirico di Milano, durante una riunione sul futuro del teatro, presenti grandi notabili accanto a giovanissimi come Vittorio Gassman, Grassi prende la parola e si infuria. Ci sono ancora i partigiani e i fascisti fucilati per le strade. Il cadavere di Mussolini è a piazzare Loreto. Le SS hanno appena lasciato l'Hotel Regina e voi, con il repertorio che proponete, sembrate non capire che qualcosa di storico è avvenuto, che un ciclo è chiuso e un altro atto si apre nella storia del nostro paese. Nel mirino sono i capocomici della tradizione, i più conservatori. Grassi, che ha poco più di 25 anni, avverte che è il momento di passare all'azione. Appena rivedrà l'amico Streller di ritorno dall'esilio di Lugano, dovrà subito discutere con lui di un nuovo progetto. Streller è un vulcano. La sua proposta è un teatro da fondare insieme all'amico. Vuole chiamarlo Officina 45. Ma Grassi lo frena. La sua idea è ben più ambiziosa e vuole coinvolgere la municipalità. Streller morde il freno e per tutta risposta Grassi gli mette in mano le briglie dei dromedari. 14 luglio 1945. È l'anniversario della presa della Bastiglia. Il sindaco di Milano Greppi chiede a Grassi di organizzare una kermesse in onore dei francesi. Il Parco Sempione è in festa. Ci sono Carlo D'Apporto, Walter Chiari, Vittorio Gassman, Franco Parenti. A Streller, 24 anni, viene affidata la sovrintendenza degli animali del Circo Togni. Tutto avviene sotto la sapiente direzione dell'organizzatore, Paolo Grassi. Streller si è già fatto notare con le prime regie e forse mal sopporta il ruolo di responsabile del serraglio di quella kermesse, ma la sua fiducia in Paolo è smisurata. Ha già percepito che insieme a lui potrà tracciare la sua strada. Infatti Grassi riesce a coinvolgere il sindaco nel suo progetto. Si cerca una sede e Milano è ancora piena di macerie. Un teatro in via Rovello, nel cuore della città, è miracolosamente in piedi, anche se in pessime condizioni. È stato per secoli un palazzo pubblico e fino a poco prima la sede della Legione Muti, l'ala più oltranzista delle milizie fasciste, un luogo dove venivano seviziati e uccisi i resistenti. Le pareti sporche di sangue rappreso, i fori, le rose dei proiettili sui muri. Alla ricerca di sale agibili, Grassi e Streller si trovarono di fronte a questo luogo. Teatro schifoso, cadente, però capace di 300-400 posti e dove si faceva teatro. Grassi sta pensando al suo progetto di un teatro pubblico, libero e d'avanguardia, ma senza una mente creativa capace di dare senso artistico alle sue immaginazioni, non potrà mai farcela. Chiama Streller, che è febbricitante, lo porta in via Rovello e gli fa una domanda. Giorgio, te la senti di fare un teatro stabile qui, in questo luogo? Chissà cosa pensa il giovanissimo Streller in quelle ore. Il luogo è quasi fatiscente, è sporco, coi fantasmi della sofferenza appena passata. Ma è anche un luogo storico che ha servito la municipalità nell'arco di diverse generazioni. Forse avrà riflettuto su questo, sulla possibilità di far nascere da un passato di onore e morte, di storia e vergogna, il nuovo tessuto culturale della città. La risposta arriva al telefono. Decisa. Se tu te la senti, io me la sento. Dico che dividerei una montagna, ma andrei a piedi certamente a Bologna, per un amico in più, per un amico in più, perché mi sento molto ricco e molto meno infelice, e vedo anche quando c'è poca luce, con un amico in più, con il mio amico in più. Non farci caso, tutto passa, hanno tradito anche me. Destini incrociati. Gennaio 1947. Sull'onda del risveglio artistico e culturale, col cinema neorealista, con la musica che imperversa nei locali al ritmo del jazz, anche il teatro italiano viene sconvolto da una tempesta creativa destinata a cambiarlo profondamente. Una tempesta che parte da Milano, per poi contaminare tutto il paese. La scatenano due amici con un'idea comune, un progetto che è quasi impossibile pensare in quegli anni, e cioè quello di un teatro pubblico, municipale, al servizio dei cittadini, come l'acqua, i gas, l'elettricità. Un teatro che abbandoni i vecchi testi romantici che non rispecchiano la realtà che la guerra ha definitivamente cambiato. Quei due amici si chiamano Paolo Grassi e Giorgio Streller. Il primo, 27 anni, professione organizzatore. L'altro, 25, professione regista. Grassi aveva 27 anni e Streller ne aveva 25. Oggi due persone di quest'età non riescono neanche a riuscire a parlare con un ufficio, non del piccolo teatro in quanto tale, ma di qualunque teatro pubblico italiano. Streller, triestino di nascita, ha sempre vissuto circondato dall'arte. La madre, nota violinista, lo ha sempre spronato a seguire il suo istinto. A Milano, dove la famiglia si trasferisce quando Giorgio è ancora un bambino, troverà la sua vera vocazione. Si iscrive all'Accademia dei Filodrammatici, arrivando neanche a dirlo primo del suo corso. Giorgio è irrequieto. Vanità e presunzione sono caratteristiche innegabili del suo carattere. Il fatto è che ha un talento straordinario. Di questo devono essersi accorte le autorità municipali, il sindaco Greppi in testa, quando gli hanno affidato con Grassi il piccolo teatro. Lui stesso si sorprende quando ripensa a quel momento. Come si può convincere qualcuno ad affidarti uno spettacolo di teatro come regista, in un paese in cui il regista è ancora una specie di essere misterioso, quasi illegittimo, e in cui nessuno, o quasi, è abituato ad essere diretto, soprattutto da un giovane, molto giovane come ero io? È così che nasce il Piccolo Teatro di Milano, da due giovanissimi teatranti ai quali oggi non verrebbe dato credito da nessuno. Ed è così che i nostri due protagonisti fondono i loro destini, diventando l'uno la parte indispensabile dell'altro, seguendo un progetto comune legato a un nuovo modo di intendere quest'arte, aprendola a nuovi autori, aprendola all'Europa. Il primo testo ad andare in scena è di Gorky, autore russo che ha dato voce ai Miserabili, sulla scia del Decennale dalla morte. L'Albergo dei Poveri è un'opera perfetta per aprire la stagione di un nuovo teatro. Alla neonata sede di Via Rovello, un regista prova incessantemente, giorno e notte. Il suo manager fa in modo che tutto sia al suo posto, perfetto, con una cura maniacale per i dettagli che caratterizza entrambi, a cominciare da Grassi. I nostri tecnici erano tutti vestiti di nero, col grembiule nero, e direttori di scena, trovaroba, tutti, e con le furlane nere, perché non si devono vedere i piedi. Lui controllava tutto. Streller non è da meno. Quando affronta un allestimento, mostra un'attenzione spasmodica per i dettagli. È preso da una trance creativa che si riveste, nella percezione dei suoi stessi attori, di sacralità. Giorgio è un esteta che dà molta attenzione ai colori, ai richiami emotivi delle immagini. Non si accontenta delle scelte tecniche dei suoi collaboratori. L'attore Franco San Germano è testimone di questa ossessione per il particolare, la perfezione. Non era così, Armando, era il capo elettricista. Non era così. C'è un buco là. Indica, Armando sale in palcoscenico, si era fulminata una lampadina. Una di 64 lampadine da 125 si era fulminata. E lui vedeva questa cosa. Non era un trucco. Spettacolo dopo spettacolo, spesso preparato e provato in pochissimi giorni, si costruisce così il mito di un teatro aperto al mondo. L'Arlecchino servitore di due padroni di Goldoni, Pirandello e i giganti della montagna, Delitto e castigo, testo tratto dal romanzo di Dostoevsky, di Shakespeare Il Riccardo II e la tempesta, nella traduzione di Salvatore Quasimodo e che segna il debutto di Nino Manfredi al Teatro Milanese. La tempesta, scatenata dal duo più coeso e assortito, produce una mole impressionante di allestimenti, pari solamente alla fame di un pubblico che cambia profondamente nella Milano industriale del dopoguerra. Il legame municipale è centrale e la connessione con la cittadinanza sempre più stretta. La frequentazione del Piccolo Teatro entra nella normalità per un pubblico, quello milanese, con la cultura del fare, ma anche del pensare. Tra i due intellettuali non mancano confronti aspri, ma sempre animati da un'onestà intellettuale di fondo. Si cercano, si scrivono, come se vivessero in città diverse. Non hanno tempo per parlarsi, semmai amano scriversi come due gentiluomini del secolo precedente. Di Grassi queste parole. Non so come ogni giorno trovo il tempo per venire in teatro. dettare 30 o 40 lettere, fare 40 telefonate, decine di grane, superare diversi motivi di disgusto. Sento come intellettuale di essere più attento, curioso e aggiornato di tanti artisti e intellettuali. Ma la testa è stanca, gli aiuti pochi, l'egoismo intorno molto. Volano così 20 anni di allestimenti continui, spesso più di uno in una stessa stagione. Streller alterna regie teatrali a quelle musicali alla Scala. Per i suoi attori un compito arduo, provare giorno e notte, andare in scena per lunghi periodi. Streller e Grassi sentono la necessità di offrire a Milano nutrimento per la mente, strumenti di riflessione. Milano, che tra una nebbia e l'altra offre effervescenza, socialità e un'accoglienza straordinaria per le generazioni che dalle periferie vengono a cercare il loro piccolo angolo di paradiso. Sempre più grandi coi magazzini, le scale mobili, coi grattacieli sempre più alti e tante macchine sempre di più. Com'è bella la città, com'è grande la città, com'è viva la città, com'è allegra la città. Vieni, vieni in città, che stai a fare in campagna? Se tu vuoi farti una vita, devi venire in città. Paolo ogni giorno legge la mazzetta dei giornali, detta le sue lettere, fa le sue telefonate, ma mantiene sempre un orecchio alla ribalta. C'è un altoparlante sempre connesso con il suo ufficio. Il polso con quello che accade in scena è sempre puntuale. Grassi ha a cuore sia gli spettatori che i suoi attori. Grassi stava molto con gli attori, e dietro le quinte per i ringraziamenti, e li governava lui. E allora gli innamorati, Arlecchino solo, il gruppo delle maschere. E lui dava i comandi dalle quinte. Quando poteva stare in tournée insieme agli attori diventava come un bambino, giocava finalmente a fare il teatro. Milano accoglie, educa, impone le sue regole. Il calabrese Grassi, il triestino Streller diventano profondamente milanesi. Quell'essere milanesi che si rivela nelle scelte, nei valori in cui credere, nella forza delle idee. Quel rigore incrollabile, il rispetto delle libertà altrui per poter esercitare le proprie. Il senso dei ruoli, di comporre un unico meccanismo perfetto di socialità al servizio dell'uomo. È il profumo degli anni 50, con tutte le contraddizioni del caso, ma con tutti gli entusiasmi che dovevano animare personalità come quelle dei nuovi inquilini di Via Rovello. Uno, sempre vestito di nero, tra le tenue luci di servizio della ribalta, pronto a seguire i propri attori. L'altro, dall'alto dell'ufficio di direzione, condiviso con l'amica e moglie Nina Vinchi, la terza colonna del piccolo teatro. Fondano la scuola per attori del piccolo e insieme a loro si costruisce una generazione di artisti, cui le opportunità non mancano. La stessa Giulia Lazzarini, all'esordio come attrice, rinuncia alla scrittura al piccolo perché richiesta niente meno che da Luchino Visconti per La rosa tatuata di Tennessee Williams. Io ho scelto di stare con Visconti e poi non si è fatto quello spettacolo, quindi il mio primo, diciamo, impatto col teatro è stato un flop praticamente, cioè un buco proprio che ricordo con... Oggi sorridendo, ma allora in effetti è stata proprio una sfiga tremenda. Giulia Lazzarini avrà modo di rifarsi molte volte sul palcoscenico del piccolo, insieme ad altri artisti che poi hanno vissuto carriere incredibili come Adriana Asti, Tino Carraro, Giancarlo Dettori, Romolo Valli, Gastone Moschin, solo per citarne alcuni. Grassi e Streller sembrano invincibili sulla scena del teatro italiano. Ancora non sanno che una nuova tempesta, questa volta terribile, si sta abbattendo su un'Italia borghese. L'Italia vive sul suo Titanic di certezze e le sere davanti alla TV. C'è il Festival di Sanremo, gran cerimonia del ben pensare. Va tutto bene, ma sotto cova un profondo malcontento. Un giovane cantautore si ucciderà dietro la ribalta di un'Italia che viaggia in 1100, che ha scoperto le ferie a Riccione, che va allo stadio la domenica, che mette il vestito buono per andare a teatro. Arriva il 1968. La solita strada, bianca come il sale, il grano da crescere, i campi da arare. Guardare ogni giorno se piove o c'è il sole, per saper se domani. Destini incrociati. A destini incrociati è il 1968. In via Rovello, una piccola stradina adiacente a via Dante, in pieno centro a Milano, due amici stanno vivendo una carriera teatrale magnifica, fatta di successi e riconoscimenti. Sono i fondatori del Piccolo Teatro, il primo teatro stabile municipale italiano. Sono Giorgio Streller e Paolo Grassi. Credono nella ricerca, nel rinnovamento continuo e cercano di applicarli nel loro fare teatro, ma non immaginano che l'ondata di ribellione proveniente dagli Stati Uniti e dall'Europa li travolgerà comunque, come marinai nella tempesta. Sono il monumento dell'antipolemica, non è questo, l'ho già detto anche con buona pace ai milanesi. C'è stato Volli, qualcuno, che mi ha detto, lei sa che Strella leggerà Leopardi. Candidamente dal telefono ho detto, mi è cascato quasi il ricevitore, ho detto, ma come è possibile? È regista, sì. Uno dei più importanti, se non il più importante regista del dopoguerra. È il monumento, come ho detto già in altre occasioni, al milite in piedi. Lui se l'è presa, insomma, mi ha tolta la sua stima, no? Io speravo che l'avesse tolta quando 20 anni fa ho cominciato a far teatro, cioè a minare tutto quello che lui aveva fatto. Carmelo Bene, attore, intellettuale, regista, è tra i giovani che nel 1968 mina, o mena, come dice lui, le convenzioni del teatro, come viene inteso fino a quel momento. Bene è un rivoluzionario che fa bene al teatro. Diverso il discorso per le masse di giovani che si radunano davanti alla sede del Piccolo per urlare la loro protesta. Streller stesso avrà modo di ricordare quei momenti drammatici. Una mattina, sotto le mie finestre, una turba di giovani urlava. Io mi sono detto, ecco i compagni che vengono a chiedermi di andare alla manifestazione. Ho aperto la finestra e mi hanno preso a pernacchie. Avevano dei cartelli con su scritto «Morte al barone», «Morte a Grassi», «A Streller». Era la contestazione giovanile. Sulla bocca avevano soltanto Che Guevara. Cosa potevo fare? Streller ha una cosa sola da fare. Andarsene. Pensa che forse quella è l'occasione per cercare una nuova strada, per rimettersi in discussione, provare nuove vie teatrali. Nascondere nell'indignazione e nella delusione questa decisione è facile per una personalità ingombrante come la sua. Che ne sarà adesso della sua amicizia con Grassi, del loro sodalizio che ha scritto una pagina della storia del teatro? Paolo Grassi è sempre più aderente all'immagine di un capitano che nella sua nave deve superare una tempesta, questa volta determinante per la stessa sopravvivenza sua e del teatro che ha contribuito a fondare. Come salvare la barca in queste condizioni? Come continuare? Come uscirne? Non so, e soprattutto ogni minuto mi casca addosso qualcosa che mi riporta a contatto con la realtà di ogni momento. Ciao, ti abbraccio Paolo. Paolo Grassi non ne vorrà l'amico di mille battaglie. Tra di loro il tu faticosamente conquistato è un patrimonio troppo grande da disperdere per una scelta che Grassi comprende essere dettata dal cuore più che dalla ragione. Per Streller, intanto, è l'inizio di una nuova avventura professionale che avviene abbracciando esperienze cooperativistiche con altri attori. Giorgio sbatte la porta non certo al compagno delle sue battaglie, ma un mondo che cavalca la contestazione additando un capro espiatorio. Voi credete che questa sia una poltrona? Va bene, prendetela allora, prendetevi il mio posto. Ma ricordatevi che Streller fa il teatro qui, in Europa, dentro, fuori, senza di voi, con voi, con le strutture, senza le strutture. Grassi resta al Piccolo. Accanto a sé l'amata Nina Vinchi, che lo aiuta a reggere il timone. Tra Paolo e Giorgio non cessa un intimo e sincero carteggio. Io sono infinitamente stanco. Se tu venissi qui dalle 9 alle 24, inorridiresti. È il massacro. Si era pensato di vederci venerdì, ma a che? Con questo clima, con questa prospettiva di dissoluzione. Me ne sto qui a crepare senza prospettive, senza decisioni, senza avvenire. Siamo tutti ormai finiti. Forse dobbiamo finire. Ti abbraccio Paolo. Quattro non li abbandonare, ti mancheranno. Quando avrai le mani stanche tutto lascerai. Per le cose belle ti ringrazieranno, soffriranno per gli errori tuoi. Thank you. A destini incrociati, Paolo Grassi e Giorgio Strehler, che hanno legato per 20 anni i loro destini l'uno all'altro, si separano. È il 1968. Grassi resta al timone del piccolo teatro. Strehler prende la sua strada. Saranno 4 stagioni intense di ricostruzione, di grandi sofferenze. Dopo una crisi, la ricostruzione è dura, faticosa, ma il piccolo non può morire e il genio di Strehler troverà nuove strade. 4 stagioni volano, fino al 1972. È il 25 aprile, sono le 21:10. Al piccolo danno Interrogatorio all'Avana di Hans Magnus Enzensberger, un testo compilato con i dialoghi dei controrivoluzionari dell'attacco alla Baia dei Porci. Ma lo spettacolo non inizia. Alla ribalta, con il sipario ancora chiuso, si presenta un signore coi baffi in giacca e cravatta. Un po' impacciato, la fronte imperlata di sudore. È Paolo Grassi. La sua voce è stranamente bassa, rotta dall'emozione. Il pubblico che non sente chiede voce. Voce, non si sente! Si sente, voce, non si sente! Il primo aprile del 1947, Giorgio Strehler, Nina Vinchi ed io, in una stanza qui sopra, abbiamo dato vita al piccolo teatro. Da allora il piccolo ha prodotto 146 spettacoli. Quella di questa sera è la 8023esima recita. Il 2 maggio cominciavamo le prove dell'Albergo dei Poveri di Gorky e il 14 maggio si andava in scena. L'incarico di sovrintendente alla Scala mi mette nell'impossibilità di continuare ad essere il direttore del piccolo teatro. Tra qualche ora, tra qualche giorno, Giorgio Strehler diventerà il direttore del piccolo teatro. Il pubblico si ferma per qualche istante, poi esplode. A 52 anni Grassi compie un passaggio fondamentale della sua carriera. È il nuovo sovrintendente alla Scala e ha già nominato il suo successore al piccolo, l'amico che lo ha lasciato 4 anni prima. Il progetto di dirigere la Scala richiede tutte le sue energie, ma l'amore per il teatro che ha fondato lo porta a chiedere alla compagna della sua vita, della quale ha un disperato bisogno, di restare al suo posto. E per l'amico di una vita è il momento di ritornare a casa. Ma forse è questo un destino di noi triestini, quello di essere inquieti, quello di non essere mai tranquilli, di essere sempre inappagati. Mentre Grassi vivrà stagioni esaltanti all'istituzione Scaligera prima e come direttore generale della RAI dopo, Strehler prende di nuovo in mano il suo teatro, questa volta acclamato dalla gente e dalle autorità. Il 1972 è quindi l'inizio di una rinascita che vedrà le regie più ardite e suggestive del regista, le rielaborazioni di classici shakespeariani e la nascita, nel 1982, di quel teatro d'Europa a Parigi con cui abbiamo iniziato la nostra storia quest'oggi. Nel 1997 Strehler se ne va. Resta però un complesso teatrale fatto di 3 teatri, una scuola. Un'eredità importante attraverso la quale una società senza riferimenti può ancora interrogare se stessa e cercare una strada comune. E se è vero che il teatro è presente, lasciamo che sia il teatro, con l'opera di Shakespeare Strehler, a congedarci da questa tempesta di sentimenti, passioni, progetti che è stata la vita intrecciata di Paolo Grassi e Giorgio Strehler. Questo nostro spettacolo è finito. Questi nostri attori erano tutti spiriti e si sono dissolti nell'aria sottile, e come l'edificio senza fondamenta di questa visione, le torri ricoperte dalle nubi, i palazzi sontuosi, i templi solenni, questo stesso vasto globo, sì, è quello che contiene, tutto si dissolverà. Come la scena priva di sostanza, ora svanita, tutto svanirà senza lasciare traccia. Cosa non darei per stringerti a me? Cosa non farei perché questo amore diventi per te più forte che mai? Destini incrociati. Destini incrociati. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco.